America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Now there's a quarter of the vote to come in. Governor Romney could pick up, you know, a couple hundred votes here, maybe a thousand votes here. Un'altra notte difficile, quella del super martedì. 10 stati in palio, in contemporanea, una corsa sul filo di lana. Alla fine Romney esce a testa alta da questo confronto del super martedì, riesce ad imporsi con 5 stati: Vermont, Virginia, Massachusetts, Idaho e Ohio, appunto lo stato di certo più importante. Santorum, anche lui esce a testa alta, vince in 3 stati: l'Oklahoma, il Tennessee, il North Dakota. Gingrich alla fine ha vinto soltanto la Georgia, il suo stato. Conteggio complessivo degli stati da quando sono partite queste primarie dopo il Super Tuesday: Romney 13 stati, Santorum 7, Gingrich 2. Romney ha circa 359 delegati, Santorum circa 130, Gingrich 109, Paul 58. Beh, siamo ben lontani dalla soglia di 1144 necessari per assicurarsi la nomination. Però devo dire che quella di ieri è stata una giornata molto movimentata, anche perché è cominciata con un ingresso a gamba tesa in questo super martedì, che doveva essere il grande giorno dei repubblicani, con un ingresso a gamba tesa del presidente Barack Obama. Mitt Romney has criticized you on Iran and said hope is not a foreign policy. He also said that you are America's most feckless president since Carter. Yeah. What would you like to say to Mr. Romney? Good luck tonight. Ecco, avete sentito una giornalista in conferenza stampa, questa conferenza stampa convocata da Barack Obama, la prima dall'ottobre scorso, chiede, signor Presidente, ma lei cosa risponde a Mitt Romney, che la definisce come il presidente più inetto della storia? Obama, che pure, come vedremo più tardi, aveva attaccato i repubblicani, soprattutto per le posizioni sull'Iran, sorride, devo dire, il suo solito sorriso distaccato, e risponde semplicemente: buona fortuna a Mitt Romney stanotte. Great to have my family here, to be back in our home of Massachusetts. It's wonderful to be able to go home tonight for the first time in 2 months. Avete sentito il tono sollevato di Romney? È meraviglioso essere qui con la mia famiglia, poter tornare a casa con loro stasera qui in Massachusetts per la prima volta in 2 mesi. Infatti Romney ha deciso di celebrare il Super Martedì a Boston, dove ha sede il suo quartier generale. Però ricordiamolo, siamo ancora a metà del guado, siamo ancora in mezzo a queste primarie. Per Romney c'è stato davvero un momento di grande imbarazzo, perché pensate, ha speso 4 volte quello che ha speso Santorum in Tennessee, in Ohio, 3 volte in Oklahoma e così via. Eppure ha perso, per esempio, in Tennessee, ha perso in Oklahoma e se l'è vista davvero molto brutta in Ohio. È stato soltanto sul finale che è riuscito a recuperare, grazie al voto di grandi centri urbani, che per qualche ragione è giunto solo molto tardi. Ecco, è un campanello d'allarme, l'ennesimo per Mitt Romney, che non riesce ad imporsi come vorrebbe. Molti lo attaccano, dicono che non riesce a fare presa sulla destra, che non riesce ad emergere come il candidato di punta. In realtà questa è una corsa difficile e molte corse per le primarie sono state difficili. In questo periodo, 4 anni fa, Barack Obama combatteva ancora contro Hillary Clinton, non si sapeva come sarebbe andata a finire, è durata ancora poi alcuni mesi e dunque io direi che non si possono, secondo me, fare delle imputazioni particolari o particolarmente dure e severe contro Mitt Romney. Sta combattendo la sua battaglia, ha il vantaggio dell'organizzazione dalla sua parte, si ritrova con dei candidati tenaci come Rick Santorum e come Newt Gingrich, sta facendo la sua parte. Io credo che alla fine riuscirà a conquistare la nomination repubblicana senza troppi problemi. This was a big night tonight, lots of states, we're gonna win a few, we're gonna lose a few, but as it looks right now. Ecco Santorum, che si conferma come la grande sorpresa di queste primarie. È stata una gran notte stanotte, ha detto: molti stati in palio, ne abbiamo vinti alcuni, persi altri, ma abbiamo conquistato qualche medaglia d'oro e molti argenti, abbiamo vinto ad ovest, nel Midwest, nel sud, siamo pronti a vincere il tutto il paese. Ecco, ovviamente ottimista, io non credo che Rick Santorum alla fine ce la farà a vincere in tutto il paese, ma il suo messaggio forte la sua non è una macchina organizzativa straordinaria come quella di Romney, eppure è riuscito a far bene in più parti, sicuramente è riuscito a fare molto meglio di Newt Gingrich, che si ostina a restare in gara. Let me be very clear. I believe that I am the one candidate who has the ability to debate Barack Obama. Discorso molto paternalista, direi persino forse un po' arrogante, quello di Newt Gingrich, che ha continuato a dire ce l'abbiamo fatta, è stato grazie a voi, ci avevano dato per morti. Ecco, direi che c'è un filo di arroganza in Newt Gingrich. Alla fine Gingrich finora ha vinto soltanto due stati da quando sono partite queste elezioni, farebbe meglio a ritirarsi, è vero che potrebbe far bene in alcuni stati del sud, ma di fatto sta togliendo voti a Rick Santorum, impedisce al partito di focalizzarsi su un dibattito a due e continuerà a fare a lungo il terzo incomodo. Ecco, questo danneggia Santorum e invece favorisce Mitt Romney. Resta anche Ron Paul in corsa, ma Ron Paul è un elemento a parte. Ron Paul continuerà a restare in corsa fino alla fine. Se riesce ad accumulare punti come ha fatto ieri in molti stati e continuerà ad accumulare punti, alla fine potrebbe anche decidere di correre per conto suo, potrebbe diventare così un elemento di incognita impazzita in questa corsa elettorale. When I see the casualness with which some of these folks talk about war, I'm reminded of the costs involved in war in terms of sending our young men and women into battle and the impacts that has on their lives, the impact it has on our national security, the impact it has on our economy. This is not a game. There's nothing casual about it. Ecco, Obama ha deciso di attaccare i suoi concorrenti sul fronte iraniano. E dice Obama, questi signori parlano con una casualità che mi preoccupa, loro non hanno le mie responsabilità, non sono sul ponte di comando, quando vedo la leggerezza con cui parlano della guerra, io penso ai costi, alla decisione di mandare i nostri giovani sul campo di battaglia, questo non è un gioco per loro, è un gioco politico, non c'è nulla di leggero a riguardo. Ecco, Barack Obama ha deciso, come vi dicevo, di entrare a gamba tesa in questo super martedì, ponendosi in contrasto con questi concorrenti che si stanno scannando fra loro, ecco, ponendosi in contrasto come figura supra partes, come presidente in carica che è impegnato da ben altre preoccupazioni che quella di accapigliarsi con concorrenti che, come lui stesso dice, parlano in modo fin troppo casuale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Insomma, Super Tuesday lo abbiamo archiviato, resta una giornata chiave nella storia elettorale americana e dunque la canzone del giorno oggi non poteva che essere dei Rolling Stones. Ruby Tuesday. When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.